Benvenuti alla 12ª puntata di Cialtroni nello spazio. Per i pochi nottamboli e fortunati, sono le 23:43 minuti di mercoledì notte. Gli altri invece ci ascolteranno in replica il mercoledì alle 13:30. Quindi il mercoledì successivo, direi, vero Marco? Sì, esatto, con una settimana di ritardo, però. Mercoledì 20. Cialtroni nello spazio. La trasmissione, Marco? Facci il riassunto di che cos'è 12. Cialtroni nello spazio. È un... ecco, qua ripeto sempre la stessa parola, cerco di cambiarla. È un tentativo di riuscire a comunicare qualcosa attraverso il mezzo radiofonico, di informatica, di tecnologia anche a volte. E di questioni legali. Di un sacco di cose, diciamo. E salutiamo appunto la nostra prima ascoltatrice che è riuscita a compilare il form per comunicare con noi, Paoletta, e la ringraziamo per i complimenti, insomma, e speriamo che ce ne siano degli altri e soprattutto con domande, proposte, consigli e critiche. Lo trovate il form sul nostro sito www.circola.net/progetti/cialtroni nello spazio, insomma un po' di link in giro lo trovate subito. C'è da dire che per chi ci ascolta di mercoledì notte ci può anche telefonare allo 030 45 670, dato che è una cosa fastidiosa che spesso qualcuno ci chiama quando noi siamo in onda in replica e non possiamo rispondere. Quindi insomma, per i pochi appassionati che sono senza saperlo all'ascolto in questo momento, non era annunciata come cosa, 030 45 670, oppure insomma telefonate anche se è mercoledì pomeriggio, vi risponderà qualcun altro e poi ci riferirà, insomma. Un'altra caratteristica della nostra trasmissione è che cerchiamo sempre di portare dei gruppi musicali che sono fuori dai circuiti di distribuzione della SIAE, perché appunto crediamo in una musica più libera e più condivisibile. E appunto Alessandro stasera ci proponeva. Allora, questa sera andiamo a sentire un gruppo, si chiamano Young Gang, un gruppo nato nel 94 che fa genere musicale, fa punk oi, militante, quindi direi che fa al caso della settimana antecedente al 25 aprile. Il gruppo ormai ha svariati anni di attività, appunto dal 94, e rende disponibile sul suo sito www.younggang.com tutta la sua produzione musicale e più una serie di foto e commenti vari, nonché la linea politica del gruppo. Quindi ci andiamo a sentire il primo pezzo, che è Liberati. We'll be right back. c'era il volume? Ah, non, certo, mi sentivo. C'era. Ok, allora non iniziamo fidano, con qualche news degli ultimissimi giorni proprio, visto che insomma ci sono diversi argomenti di cui si può sempre parlare, poi bisogna sempre cercare di cercare di capire anche quali sono i più interessanti. Uno sicuramente che si lega non tanto all'informatica, ma che passa attraverso alla tecnologia, l'informatica, insomma, la tecnologia, eccetera, è una notizia che io non riesco a definire molto piacevole, insomma. Ale, non so se tu hai qualche idea diversa, però comunque adesso andiamo subito a illustrare qual è la nuova idea che è venuta all'esercito americano di dotarsi di mine anti-uomo che vengano controllate a distanza. Quindi insomma, tramite un computer portatile e una scheda senza fili sarà possibile causare esplosioni a distanza di numerosi metri, e queste mine pare che verranno utilizzate. C'è stata una sperimentazione con circa 25 mine nel settembre scorso, e pare che dal prossimo giugno verranno utilizzate in Iraq, soprattutto nelle zone calde come checkpoint o basi militari. Facciamo anche i nomi di quali saranno i responsabili di queste produzioni: la Textron e la Eliant, che sono già comunque delle collaboratrici dell'esercito americano e che contribuiranno appunto al lavoro delle truppe Stelle e Striscia. E insomma, ci sono molte considerazioni da fare. Io faccio adesso subito qualche domanda a Marco: quanto sicura è una rete wireless? Beh, allora, relativamente appunto alla sicurezza, penso che... Innanzitutto cosa significa una rete wireless? Esatto, più che altro volevo partire da quello, sarà anche l'argomento. Cerchiamo magari di spiegare più o meno cos'è, in cosa più o meno verranno applicate queste mine, per cui come funziona la questione. Diciamo che vengono buttate come mine normali e a quel punto possono essere utilizzate, sia fatte esplodere a distanza oppure disattivate quando, diciamo, un... controllate in tutte le loro funzioni. Esatto, diciamo, quando si vuole lasciare passare sopra questo campo minato qualcuno, ovviamente si passa su un campo minato che è disattivato, per cui nessuno salta per aria, mentre invece nell'uso contrario si può far saltare in aria una determinata posizione, una determinata mina. L'intero progetto si chiamerà Matrix e verrà da Matrice, appunto, e anche dai film di fantascienza che abbiamo recentemente visto più o meno tutti sugli schermi. Esatto, diciamo che subito le organizzazioni appunto che da sempre lottano contro la proliferazione delle mine hanno appunto, come ad esempio Human Rights Watch o altre che adesso mi vengono in mente, appunto si sono subito lanciate contro questa idea malsana, appunto l'ennesima idea malsana degli americani in questo campo, che sono una delle pochissime nazioni al mondo che non ha ancora firmato. Beh, in barba appunto al progetto delle Nazioni Unite della messa al bando delle mine anti-uomo, considerate armi di distruzione di massa. Esatto. E relativamente alla sicurezza della mina, innanzitutto una piccola questione, che la questione della mina potrebbe essere diciamo protetta da un codice crittografico abbastanza potente, per cui essere tra virgolette sicura. Il problema è le mine poi cosa fanno? Le lasciano lì per terra, fra 10 anni qualcuno scopre come attivarle o come disattivarle, o non si sa, cioè, comunque la mina è un oggetto che scopra come disattivarle e che questa sia la sua intenzione, però ovviamente questo non esatto è... però questa cosa potrebbe finire in mano alle persone sbagliate, per cui avere un campo minato che dopo 10 anni decide di riattivarsi come campo minato, in particolare in aree geopolitiche altamente instabili, che più o meno sono instabili da 20 anni. Quindi parliamo, diciamo, di qualcosa di più divertente, magari. Sì, esatto. Questa notizia era abbastanza brutta, però vabbè. Una notizia buona e una notizia cattiva. In realtà è anche un modo per far capire come moltissime delle tecnologie che vengono utilizzate nell'informatica in generale, comunque delle tecnologie sviluppate per usi civili, abbiano poi numerosi risvolti a livello militare. Ad esempio è cosa risaputa che i produttori di chipset per schede video, ad esempio i più diffusi oggi sono Nvidia e ATI, in realtà sviluppino tutta una serie di chipset grafici per simulatori di volo, controllori di volo che vanno poi sui caccia o cose di questo genere. Quindi anche le tecnologie più più tranquille, insomma, che sembrano più banali, quelle per i videogiochi, sostanzialmente hanno spesso poi dei risvolti militari notevoli. Giusto, io da piccolo ho giocato a Tornado, comunque, che era utilizzato all'epoca come simulatore. Per diciamo concludere questa questione dei giochi, l'esercito americano produce un gioco, si chiama Army qualcosa, esercito americano, US Army. US Army. Ed prodotto dall'esercito. È prodotto dall'esercito degli Stati Uniti americani. Un'altra novità di cui vogliamo parlare è un occhio di riguardo che abbiamo sempre dato all'interno di questa trasmissione, l'utilizzo di Linux, ovvero il sistema operativo libero e open source che ha, appunto, che mette a disposizione i suoi codici sorgenti ed è soprattutto anche gratuito, cosa non da poco per certi tipi di utilizzo, sta avanzando nel settore pubblico e nella pubblica amministrazione anche negli Stati Uniti e in Inghilterra. Le dichiarazioni vengono dal direttore dei programmi pubblici per Linux all'IBM, Marianne Fisher, che ha detto che secondo lei sono più di 160 i governi che usano programmi open source. Adesso non si va molto nei dettagli, si parla un po' di quello che sta succedendo in India, in Cina e in Brasile, di cui abbiamo tra l'altro parlato, e di alcune città come Parigi e Monaco, ma la notizia è che adesso pare proprio che anche negli Stati Uniti siano diverse le agenzie governative statali che stanno adottando il pinguino, che è il simbolo un po' di Linux, per fare vari compiti. Ad esempio, ho citato in un articolo pubblicato recentemente su Apogee Online il caso delle forze di polizia del Mississippi, della Homeland Security del Mississippi, un progetto che appunto va avanti con un costo di circa $300,000, che permette a loro di personalizzare il software open source e di offrire l'assistenza tecnica necessaria. E la cosa interessante è che poi i sorgenti che vengono in questo modo riscritti vengono donati alle altre agenzie per poterlo utilizzare di nuovo liberamente e gratis, un po' come si sta muovendo anche, almeno nei progetti preliminari, il comune di Roma in Italia e altri progetti che potrebbero partire a breve sempre in Italia, perché poi il problema è spesso quello di creare la prima copia del software, metterlo a disposizione degli altri e permettere appunto di... Sì, Alan Wish. Esattamente, visto che parlava proprio della condivisione dei prodotti software all'interno delle amministrazioni pubbliche, c'è da sapere che appunto in Italia ogni amministrazione pubblica si compra o commissiona il software individualmente, quindi ci sono fior di ditte informatiche che sopravvivono e anzi lucrano ampiamente sullo sviluppo di software per le pubbliche amministrazioni, e ogni pubblica amministrazione commissiona questo software in maniera autonoma, quindi non riesce nemmeno a spuntare un acquisto di massa. Questo, esatto, funziona ad esempio per i comuni, che sono ovviamente tantissimi, e quindi questo, diciamo, uno spreco incredibile di denaro pubblico. Anzi, cioè, se soltanto spendessero un decimo di quanto spendono per sviluppare nuovo software libero. Vabbè. Ma novità delle novità è quello che sta per accadere in Inghilterra, dove in Gran Bretagna, anzi nel Regno Unito, un'iniziativa simile a quella che potremmo definire storica nel mondo dell'open source, che è sourceforge.net. Questa sera la parola source non mi esce. Un sito simile a sourceforge.net, tra cui tra l'altro abbiamo preso molti dei programmi che abbiamo recensito e di cui parleremo nelle prossime puntate. Proprio nel Regno Unito nasce una Open Source Academy. Ci sono troppe source in questa notizia che voglio dare. Source vuol dire sorgente, per quelli che non sanno l'inglese, come, esatto, Alessandro, sorgente, ad esempio. E si creerà proprio una piattaforma condivisa per permettere alle autorità quindi le autorità governative, quindi le pubbliche amministrazioni, di collaborare sul software di uso comune e costituire un archivio pubblico dei programmi che esistono già al codice aperto e anche una directory di fornitori di software open source, quindi una sorta di database, potremmo dire, esatto, con anche delle risorse, visto che c'è un finanziamento che viene dal governo centrale, ed ha proprio lo scopo di colmare il divario che esiste tra il Regno Unito e gli altri paesi europei nell'uso dell'open source per la pubblica amministrazione. C'è da dire che anche l'Italia non è esattamente... Sì, però l'Italia non si sta assolutamente muovendo da quel punto di vista. Insomma, non si sta nemmeno... Non solo da quel punto di vista, vabbè. E basta. Abbiamo concluso con le notizie, andiamo a sentire un altro pezzo degli Young Gang, Il Santo, simpaticissimo pezzo. Ecco perché. Va bene, dai, torniamo in trasmissione, in diretta. Perfetto. Per chi ci ascolta mercoledì notte, in differita per chi ci ascolta il mercoledì successivo. Abbiamo parlato di news, qualche novità relativamente agli armamenti fantastici dell'esercito statunitense, del settore pubblico Linux nelle pubbliche amministrazioni. Adesso andiamo a parlare di un bel pippone. No, dai, non era un pippone. Volevamo parlare. Non lo faccio io. Non lo fa Ale. Stasera è Marco, designato a fare l'argomento clou della serata. Ovvero, di che cosa ci vuoi parlare? Allora, stasera parleremo con parere contrario nostro, ovviamente. Esatto, con due controrelatori. Volevo appunto parlarvi un po' di reti, che non sono quelle da pescatore, ma sono i modi per interconnettere tra loro i computer, attaccarli assieme e fare in modo che si parlino. Cosa hanno da dirsi due computer, Marco? Tante cose. Cosa vuol dire che due computer si parlano? Esatto. Per esempio, io a casa ho due computer. Su un computer mi tengo la mail, sull'altro computer mi tengo la mia musica e delle altre cose. La possibilità di avere i computer in rete ci permette di dire, avendo più computer accesi, di poter trasmettere delle informazioni da un computer all'altro, quindi fruirle da un computer senza dover andare a spostarsi per ascoltare la musica sull'altro computer o cose del genere. In definitiva la rete è questa, la possibilità ad esempio di condividere la stampante attaccata a un altro computer, di condividere l'accesso a internet dall'altro computer su un altro computer in giro per la casa e diciamo di appunto far parlare tra loro i computer. I computer. E come funziona questa come cosa? Come funziona? Spiegaci un po'. Allora. Vabbè, partiamo da un discorso puramente pratico. Fisicamente, per far parlare assieme i due computer, abbiamo bisogno di alcune accortezze o di alcuni pezzi di questi computer che vengano appunto messi dentro i computer per permettere a loro di comunicare. La cosa fondamentale è avere dentro un computer una scheda di rete e avendo poi una scheda di rete avere un cavo per connettere un cavo, sì, va bene, la versione più minima, almeno un cavo per connettere questi due computer. La scheda di rete permette appunto alle informazioni che ci sono dentro il computer di essere buttate attraverso il cavo di rete e raggiungere l'altro computer. Il cavo di rete è un oggetto che costa sui 5 euro? Sì, quelli più corti. Quelli più corti, o vabbè, comunque una cifra abbastanza irrisoria. Si chiamano cavi Ethernet, esatto. Li trovate, o cavi di rete, va bene, una cosa così. E un paio di schede di rete Ethernet costano sulle 10 euro l'una, 10-15 euro, qualcosa del genere. No, Alessandro, più o meno, di meno? Un po' di più. Dipende. Comunque sono già incluse, se comprate un computer oggi avete già incluso la scheda di rete sicuramente. E a quel punto, quando noi abbiamo nei nostri due computer due schede di rete diverse, a questo punto possiamo prendere appunto questo cavo e connetterlo alle schede di rete. E, ok, a questo punto l'interconnessione hardware è fatta, bisogna riuscire a configurare questi due computer in modo da avere da permettere appunto ai due sistemi che stanno girando sui due computer di parlare. Ok, perché la connessione fisica non basta. Un accorgimento: se utilizzate solo un cavo, quindi non utilizzate gli apparati come switch, il cavo deve essere tipo cross o incrociato, altrimenti non funziona un tubo. Esatto, altrimenti non si parlano. Sì, e tendenzialmente non li vendono così facilmente i cavoli crossati. No, nei grandi centri commerciali no, però si trovano nei negozi di informatica. Esatto, facciamo quindi subito l'esempio per esempio vogliamo connettere tre computer. In questo caso è obbligatorio avere un oggetto che si chiama switch in mezzo, o hub a seconda dei casi, va bene. In cui si connettano i vari computer singolarmente con un cavo che va dal computer A allo switch, dal computer B allo switch, dal computer C allo switch, e a questo punto i tre computer si potranno parlare tra loro. In che lingua si parlano i computer, Marco? Iniziamo a fare l'esempio di due computer magari. Allora, i computer si parlano in tantissime lingue, noi ne citiamo soltanto una che è il TCP/IP. Il TCP/IP, appunto, che è il protocollo, ovvero sia la serie di formalismi che usano appunto due computer che partecipano a un protocollo internet per parlarsi assieme. Alla base del protocollo appunto, cosa c'è? C'è un indirizzo che viene associato a tutti i computer che compongono la rete, deve essere un indirizzo univoco, e questo indirizzo associato alla scheda di rete permette poi ai due computer di parlarsi. L'indirizzo è una cosa orrenda da ricordare, perché sono una serie di strani numeri e sono quattro separati numeri da punti. Ad esempio, un indirizzo che si può utilizzare tranquillamente a casa, l'indirizzo 192.168.0.1, ad esempio, per un computer. Oppure, ecco l'accortezza che questi indirizzi devono essere ovviamente diversi per ogni computer che voglio mettere, quindi sull'altro computer che voglio collegare a questo primo devo dare un indirizzo IP diverso, che potrebbe essere 192.168.0.2. Ho l'accortezza appunto di dare questi due indirizzi IP diversi. Una volta che ho assegnato appunto ai due computer gli indirizzi, una volta che ho attaccato il cavo, i due computer dovrebbero già vedersi più o meno in rete e lo possiamo provare con un programmino stupidissimo che c'è in tutti i computer. Si accede da Windows eseguendo il programma CMD, che apre una schermata nera, oppure da Linux. Prompt dei comandi. Sotto accessori. Esatto. E scrivendo ping, P-I-N-G come il ping pong, e poi l'indirizzo dell'altro computer, si può vedere si può, diciamo, un computer tenta di mandare un messaggio di prova all'altro computer e quello gli risponde indietro. Se questa cosa funziona, i nostri due computer sono in rete. Quindi, ricapitolando, se io ho un computer A che ha un indirizzo 192.168.0.1 che gli ho assegnato con ipconfig, esatto, o con il tool di controllo della scheda, sì, di rete, sotto sistema, insomma, pannello di controllo, ci si trova rete e si trovano tutte le configurazioni. Esatto, quindi Francesco ha assegnato al suo computer l'indirizzo IP 192.168.0.1, hai detto? Sul mio computer ho assegnato l'indirizzo 192.168.0.2 e mando un comando di ping a... Scrivo sulla tastiera ping spazio 192.168.0.1 e vedo che il programma comincia a mandare dei pacchetti da una parte all'altra e vedere se i due computer si rispondono. Se sono riuscito a fare questo, a quel punto, con le condivisioni di rete del sistema, riesco a fare un sacco di cose. Riesco a quel punto a condividere delle cartelle, condividere delle stampanti, condividere la connessione di rete e altre cose. Quella è un po' più difficile, però... Tipo intendevo condividere la connessione a internet, va bene. Esatto, magari è un po' più complicato questo, però alla fine si tratta soltanto di poche operazioni. Ed è diverso da internet? Esatto, quello che abbiamo voluto citare è il protocollo TCP/IP perché è anche quello su cui si basa tutta internet. Lo stesso discorso che abbiamo fatto per gli indirizzi che devono essere diversi deve anche valere per i computer che sono attaccati a internet, che devono tutti avere un indirizzo diverso l'uno dall'altro. E quindi abbiamo in internet dei nomi, dei numeri di indirizzi assurdi, tipo 81.74.44.17, non mi ricordo l'indirizzo IP del Circolab, però vabbè, quello. quello prima era 194.185.91.166, ho imparato a memoria. E ovviamente ricordarsi, riuscire a capire, conoscere un computer dato l'indirizzo IP è impossibile, perché è una cosa impossibile da memorizzare, e quindi se in internet i nomi vengono sempre associati a una copia indirizzo IP, nome fisico. Ad esempio www.circolab.net era fino alla settimana scorsa l'equivalente di 194.185.91.166. E in questo modo parlando di DNS? Sì, esatto, quello che stavo citando, appunto, è il sistema di DNS. Che sono uno di quei parametri che potete inserire sempre nella schermata di configurazione della rete. Troverete l'IP, la netmask, che nella maggior parte dei casi è 255.255.255.0, ve la scrive Windows da solo, il gateway, che potete lasciare con lo stesso numero che inserite per l'IP, e poi vi chiede i DNS, che sono praticamente dei calcolatori che vengono configurati appunto per fare quella traduzione da nome intellegibile, quindi www.circolab.net, a IP, che è il modo invece in cui comunicano questi protocolli in internet. Quindi si può dire in un certo senso che per il cervello umano è più facile memorizzare le parole, per il cervello del computer è più facile memorizzare i numeri. Direi decisamente di sì. E quindi il DNS sostanzialmente traduce le parole in numeri. Esatto. E ci permette di non ricordare assolutamente i numeri, che sono veramente a volte impossibili da ricordare. Una volta che abbiamo pingato il computer, che cosa ci possiamo fare di carino? Come faccio, per esempio, se sul mio computer 192.168.0.1, che chiameremo da adesso in poi Zamputer, voglio prendere un file dal tuo computer 192.168.0.2, che chiameremo da adesso in poi Marcomputer? Esatto, allora tu semplicemente vai sul mio computer e clicchi su una cartella e ci scrivi condivisione di rete. Allora, qui entra però in gioco il sistema operativo. No, ma no, in realtà no, su quasi tutte le ultime distribuzioni che ho visto ci sono anche sottolineate delle cose simili, però ecco, questa è la parte, diciamo, che esce dal protocollo di rete, cioè i due computer in questo momento sono collegati e possono comunicare. Quello che si dicono e come interpretarlo lo stabilisce il sistema operativo. Quindi se volete condividere le informazioni dovete condividere la cartella attraverso il sistema che vi offre il vostro sistema operativo, che per Windows è appunto la condivisione cartella, che è una delle proprietà che si ottengono cliccando col tasto destro e scegliendo l'opzione proprietà. Uno dei tag è condividi, dove si può scegliere il nome con cui condividere la cartella. e il tipo di condivisione, quindi se permettere la lettura e la scrittura oppure solo la lettura. E su Linux invece? Su Linux i modi possono essere diversi. Esiste un tipo di condivisione simile a quella di Windows, basata su Samba, che è un pacchetto che cerca di diciamo creare un collegamento tra la rete Windows e una rete normale di computer Linux. Oppure esistono altri metodi via FTP, che è un protocollo tradizionale di internet, oppure altri più complessi. Beh, come il network file system, ce ne sono molti. La differenza è che sotto Linux esistono moltissimi protocolli per la condivisione di cartelle attraverso una rete. Sotto Windows ne abbiamo un paio, fondamentalmente. Sostanzialmente un paio. Ecco, c'è da dire che la maggior parte dei problemi che si hanno durante la condivisione delle informazioni dei file dipendono proprio dal sistema operativo, per cui è risaputo che c'è una difficoltà di far comunicare Windows XP Home Edition con il Pro per una diversa gestione delle password. Quindi anche qui uno dei... No, vabbè, comunque se avete dei problemi a condividerlo con questi due sistemi operativi, sappiate che è dovuto proprio a un diverso metodo di gestione, per cui dovete ridurre al minimo le protezioni, quindi password annullate oppure password uguale a quello dell'operatore che deve collegarsi, quindi bisogna rinunciare a una serie di cose. E per spezzare un attimo gli argomenti informatici, o meglio, per trattarli in modo un po' diverso, Zamp ci parlerà di un libro molto famoso che è Hackers di Steven Levy. E dici tutto, Zamp. Bah sì, giusto perché mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, ne parliamo abbastanza brevemente. Questo è un libro che si può dire che abbia fatto un po', si è un po' reso conto della storia dell'inizio, degli arbori della rivoluzione informatica, che possiamo identificare come la fine degli anni 50, come abbiamo detto almeno un paio di volte, al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. Il libro è veramente molto stimolante perché racconta un po' lo spirito degli hacker, inteso come atteggiamento di conoscenza e non come atteggiamento distruttivo, che è un po' l'icona cattiva che ne hanno fatto i mass media in seguito. È un libro che, anche se è stato scritto nell'84 e poi aggiornato con qualcosa 10 anni dopo, nel 94, ripercorre molto bene gli arbori di tutto quello che è una cosa che a noi appassiona molto. Allora parte proprio dal club del modellismo del MIT, dove si trovavano i primi appunto programmatori che programmavano gli scambi dei trenini, e poi arriva fino agli arbori di Linux, quindi quando nasce la Free Software Foundation e i primi programmi che tentavano un po' di tornare allo spirito iniziale. Questa è forse la parte più interessante, ovvero il libro mostra molto bene come i computer e i programmi fossero, il software fosse libero all'inizio della rivoluzione informatica, perché era scritto nelle università, non era fatto con lo scopo di lucro, non era fatto con lo scopo di vendere e guadagnare sulle linee di codice, ma era fatto per far funzionare l'hardware, che tra l'altro costava parecchio, quindi forse anche questo era uno dei motivi per cui il software poteva restare così gratuito e a disposizione. Però parla anche di come ci fosse, fosse veramente un atteggiamento di conoscenze, di rivalità positiva tra i primi programmatori, che lasciavano il programma scritto all'inizio sulle schede perforate, poi vabbè sono arrivati i dischetti e tutto il resto, lo lasciavano in un cassetto, e la sfida era arrivare al giorno dopo, prendere un programma dal cassetto scritto da un altro e riuscire a scrivere quello stesso programma riducendo il codice di un po' e scriverlo meglio, scriverlo più veloce e battere gli altri in questo modo. E quindi era tutto un altro un mondo veramente poi diverso anche rispetto a quello che poi affronta anche il libro, che parla anche non solo degli hacker del software ma anche degli hacker dell'hardware, quindi tutte le famose famose, forse in Italia non molto, ma le blue box, o sì, comunque quelli... la storia di tutti i metodi che si utilizzavano negli anni 80 per non pagare le telefonate, con lo scopo appunto di protestare contro delle cifre che erano ritenute esose, quindi anche tutto un movimento politico, e poi fino ad arrivare a appunto agli anni 90. Agli anni 90, che vengono proprio solo sfiorati in questo libro, però insomma. Beh, direi che comunque le cose di storia, ne sono cambiate, esatto, anche sì. Dopo. Diciamo, il libro si conclude con la nascita della Free Software Foundation e i primi hacker, i primi programmatori che sono diventati invece ricchi programmando o videogiochi come la Sierra, o come altri invece che si sono messi a fare hardware come Steve Jobs. E Apple. Altri che invece sono finiti in galera come Captain Crunch. Beh, c'è anche chi è morto, quindi. E ci sono altri che sono morti, anche se forse i personaggi più famosi di quelli che sono citati nel libro sono sicuramente Bill Gates che è appunto di quelli che una volta che c'è proprio l'aneddoto di quando lui ha scritto il suo programma, che mi pare adesso fosse il BASIC, che era appunto un linguaggio di programmazione QBASIC, sì. Un linguaggio di programmazione semplice da diffondere a tutti, si è accorto che alcuni avevano copiato il suo programma e ha mandato migliaia di lettere di richiesta di inviare dei soldi, ed è sostanzialmente così che viene sancito dalla Corte Costituzionale, credo, americana, il diritto alla proprietà privata del software e del codice. Ma è un libro per diciamo addetti al settore o è no, non è un libro assolutamente per addetti al settore, nel senso che è un libro per curiosi, direi, fondamentalmente per chi vuole capire che cos'è un hacker, per capire che cos'è quello che viene descritto dai media, che cos'è nella realtà. Altrimenti, certo, non è un libro facilissimo da leggere, nel senso che sono comunque un buon 300 pagine abbondanti scritte in carattere molto piccolo, come molti libri della Shake edizioni in questa modalità. Poi beh, il prezzo dovrebbe essere ancora attorno ai 15 euro, e insomma, detto tutto, Stephen Levy, Hackers, gli eroi della rivoluzione informatica, che penso che a questo punto sia tutto. E quindi se volete capire un attimino da dove viene fuori tutto quello che oggi viene spacciato come la rivoluzione informatica, l'IT come si chiama oggi, fa abbastanza ridere, leggetevi questo libro e capirete un po' di cose. Per oggi è tutto. E noi ci salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Con la nuova puntata di Cialtroni nello spazio. Ciao. Abbiamo un annuncio da fare: tra pochissimo, pochi giorni saranno online le puntate di Cialtroni nello spazio. Naturalmente sempre all'indirizzo www.circolab.net, cliccate sulla destra dove c'è il link Cialtroni nello spazio. Alessandro è nato pronto.